Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, le iniziative dell'Assemblea in collaborazione con l'Associazione Familiari delle Vittime della Strage del 2 agosto e ancora i lavori delle commissioni assembleari in tema di infrastrutture, salute e infanzia. Da qualche giorno, l'edificio che ospita la Protezione Civile a Sarmato, in provincia di Piacenza, ha cambiato completamente aspetto. Due ampie pareti sono ora ricoperte da un murale in memoria della strage alla stazione di Bologna. Sentiamo la consigliera Katia Tarasconi, presente all'inaugurazione in rappresentanza dell'Assemblea Legislativa. È un progetto che tutta l'Assemblea ha voluto, è un progetto dedicato alla memoria, perché ancorché siano passati 40 anni sono certa che per i familiari, i genitori delle vittime sia importante cercare verità. L'opera, realizzata da Collettivo FX, raffigura in bianco e nero un inquietante mucchio di maschere tra le quali spicca l'orologio della stazione di Bologna, con le lancette ferme alle 10:25. Un'allegoria della difficile battaglia per la verità condotta nell'arco di 40 anni dall'Associazione Familiari delle Vittime del 2 agosto. Con l'inaugurazione del murale nel Piacentino si conclude il progetto Lost and Found 1980-2020, memorie private collettive 40 anni dopo. Sono ora 9 in tutti i murales che ricordano in ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna la strage del 2 agosto 1980. L'iniziativa, promossa dall'Assemblea Legislativa, nasce da un'idea dell'Associazione Serendippo. E sempre in tema di memoria, è ora disponibile sul sito cronacabianca.eu il webdoc dedicato ai 40 anni di attività dell'Associazione dei Familiari delle Vittime del 2 agosto. E ora parliamo di infrastrutture e attività economiche. Procede in Commissione Territorio il percorso per l'istituzione di una zona logistica semplificata, che avrà come fulcro il porto di Ravenna. Un progetto integrato per la movimentazione delle merci e la logistica che coinvolge in Emilia-Romagna 9 nodi intermodali, 12 aree produttive, 8 province e 18 comuni. Sentiamo il relatore di maggioranza Gianni Bessi del Partito Democratico. Dà a tutte queste aree la possibilità di accedere a delle semplificazioni non solo burocratiche ma anche di sistema per incentivare e promuovere anche l'attrattività per tutte quelle aziende che vedono nella logistica intermodale, quindi acqua, ferro e gomma, la capacità di non solo migliorare le loro performance logistiche, ma anche quella di esportare di più, di essere più presenti sui mercati internazionali. Da Fabio Rainieri della Lega è giunta la richiesta affinché la regione si apra anche agli scali della Liguria, con cui l'intera zona nord-occidentale dell'Emilia-Romagna coltiva da tempo importanti relazioni commerciali. Sentiamolo. Molte imprese e i territori Parma e Piacenza, soprattutto il Reggio, che sono molto più vicini al mare Tirreno, hanno gli sbocchi in quel naturale in quei due porti, quindi Genova e La Spezia. Quindi noi chiediamo semplicemente di non toglierci una possibilità che servirebbe ancora di più come volano per questa regione. La nuova zona prevede anche specifici interventi sul ferro bonus per accelerare la transizione verso il trasporto ferroviario. Ecco cosa ci ha detto Silvia Zamboni di Europa Verde. La Regione Emilia-Romagna ha istituito un'altra misura molto interessante da questo punto di vista, che si chiama ferro bonus. Quindi sono incentivi che la Regione dà per favorire il trasporto delle merci su ferro, e questo ha portato a un aumento dei convogli ferroviari molto consistente. Cambiamo argomento. La Commissione Politiche per la Salute ha approvato a maggioranza, con l'astensione delle opposizioni, il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. Un provvedimento che pone il benessere della popolazione dell'Emilia-Romagna come obiettivo comune nelle decisioni politiche trasversali ai diversi settori. Sentiamo Francesca Maletti del Partito Democratico. Prevede 6 macro obiettivi: malattie croniche non trasmissibili, dipendenze e problemi correlati, incidenti domestici e stradali, infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali, ambiente, clima e salute e malattie infettive prioritarie. È fondamentale questo piano perché tutta la regione, in tutte le province, nei prossimi 5 anni dovranno adottare delle misure per applicare queste prevenzioni. Tra le azioni previste nel piano ci sono la promozione della salute nelle scuole e nei luoghi di lavoro, interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza in condizioni di vulnerabilità, gli screening oncologici, le vaccinazioni e la promozione di stili di vita sani. Daniele Marchetti della Lega sostiene l'importanza della prevenzione, specie in tempo di pandemia, ma ritiene che occorra maggiore attenzione per la prevenzione pediatrica. Non troviamo elementi puntuali per quanto riguarda ad esempio la sicurezza dei più piccoli, come la disostruzione pediatrica, che è una battaglia storica della Lega. Quindi noi non possiamo far altro oggi che prendere atto di macro intenzioni della giunta regionale e promettere appunto di vigilare con attenzione in futuro. Il documento contiene inoltre un focus sui possibili rischi dovuti al Covid e sull'esigenza di potenziare la sanità territoriale, a partire dal rafforzamento delle case della salute. Marco Lisei di Fratelli d'Italia chiede di puntare su una rete più efficiente di sanità territoriale. Sentiamolo. La parte delle cure domiciliari e la sanità territoriale è quella che a nostro avviso ad oggi non è sufficientemente finanziata e richiederebbe invece maggiori investimenti. Per Valentina Castaldini di Forza Italia non bisogna perdere di vista il tema giovani e l'emergenza dell'abbandono scolastico. Ecco cosa ci ha detto. Il loro rapporto con i social, soprattutto dopo il Covid, e in particolare tutti i bisogni speciali che stanno emergendo dalla scuola. I dati sono significativi, l'abbandono scolastico è molto elevato. Le famiglie devono sapere a chi rivolgersi e come fare per risolvere un problema così impegnativo. In Commissione Scuola e Cultura è stato presentato il primo bilancio triennale della legge regionale che ha riformato i servizi educativi per la prima infanzia, in un sistema che unisce gestori pubblici e privati. Un dato di particolare interesse è stato quello riferito sulle liste d'attesa. Attualmente si attestano tra il 12 e il 13%, anche se nei comuni capoluogo la media è un po' più alta. Nel 2010 era tra il 20 e il 22%. Sentiamo Marilena Pillati del Partito Democratico. Il tema della sostenibilità economica è un tema fondamentale. La Regione Emilia-Romagna investe risorse proprio per ridurre le rette, ma quello che anche la clausola valutativa mette in evidenza è l'impegno ulteriore che viene anche da parte dei comuni. Tra i temi al centro del dibattito in commissione è anche quello delle tariffe dei nidi. Nel 2019 ha trovato applicazione una nuova misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominata Al Nido con la Regione. Grazie a questa misura, secondo i dati riferiti, oltre il 60% delle famiglie che frequentano servizi hanno beneficiato di una riduzione della retta. Ecco il commento di Silvia Piccinini dei 5 Stelle. È stato istituito un fondo per ridurre le rette, dall'altra parte però ci sono state dichiarazioni importanti del Presidente di questa regione che ha dichiarato di voler azzerare completamente le rette per tutti entro i 5 anni di mandato. Mentre per noi sarebbe molto importante continuare a mantenere quel principio inserito anche all'interno della legge di progressività. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sardi.